sport e motori con Massimo Di Scienza. È stata una bella tradizione di sport e motore iniziare miscelando i due inni nazionali, la marcia reale spagnola per Fernando Alonso e poi l'inno di Mameli per la scuderia Ferrari, perché è arrivato il successo di Fernando Alonso in un gran premio complicato, difficile, duro, durissimo, due ore in pista per i piloti. Fernando Alonso è riuscito ad ottenere il successo, un successo fondamentale in questo momento della stagione, un successo che proietta il pilota della Ferrari al secondo posto della classifica mondiale. Insomma, ci voleva questa marcia trionfale per Fernando Alonso e per la Ferrari per iniziare alla grande questo pomeriggio insieme. Buona domenica a tutti, amici di Radio 24, da Massimo Di Scienza, che saluta subito i compagni di viaggio abituali delle nostre domeniche nei circuiti di tutto il mondo. Innanzitutto Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Buona domenica, direttore. Buona domenica a tutti. Come va il tuo Bologna? Che fa? Sto pareggiando e sto seguendo con ecco, apprensione. E poi sentiamo Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Ciao Carlo, buona domenica anche a te. Ciao, buona domenica a tutti. Sui tuoi gusti calcistici poi magari approfondiremo in altre occasioni. Abbiamo parlato ieri. Vabbè, allora lasciamo stare. È andata male. È una domenica che però dobbiamo dedicare ovviamente al trionfo della Ferrari a Marina Bay a Singapore. Io partirei subito con i dati di questa domenica, il successo per Fernando Alonso, che ha vinto davanti a Sebastian Vettel e a Mark Webber. Dunque sul podio due Red Bull, ma sul gradino più alto Fernando Alonso, poi Button, Rosberg, Barrichello, decimo l'altro ferrarista Felipe Massa. In classifica generale, dicevamo, Alonso rosicchia punti importanti, adesso è secondo con 191 punti alle spalle di Mark Webber, che è in testa a quota 202, terzo c'è Hamilton a quota 182 perché Hamilton non ha concluso la sua gara, è uscito per un incidente su cui poi si è aperta anche una inchiesta da parte degli ufficiali di gara con Mark Webber che è uscito però pulito da questo, ed è uno dei tanti temi di questo Gran Premio di cui parleremo con i nostri ospiti. Poi quarto Vettel 181, quinto Jenson Button a quota 177, e mancano quattro Gran Premi alla conclusione di questo fantastico mondiale di Formula 1, prossimo appuntamento in Giappone. Io partirei da Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Direttore, una prima analisi di quello che abbiamo visto a Marina Bay in questo unico Gran Premio in notturna, ma in cui Alonso, dobbiamo dirlo, ha acceso la luce nella notte di Singapore. Direttore. Beh, direi che la sintesi perfetta l'ha fatta con due parole domenicali a fine gara: ha vinto ieri, perché la pole di ieri è stata veramente decisiva per far mettere Alonso, che è partito bene, metterlo davanti, perché oggi Vettel era molto aggressivo, ma su questa pista sorpassi veri quando non ci si trova in condizioni molto differenti, insomma con piloti allo stesso livello e sono difficilissimi da fare, e Alonso è stato perfetto all'inizio a pigliare un po' di vantaggio, perfetto alla fine a non commettere errori quando Vettel gli faceva molta pressione. Certo che il campionato si è riaperto alla grande, perché va detto, oggi Hamilton è stato, a mio avviso, poi ognuno ha le sue teorie, ma veramente buttato fuori da Webber, quindi sì, il campionato è stato riaperto, la Ferrari adesso è messa bene, sono quattro gare, tutto probabilmente può succedere ancora. Adesso. Ci arriviamo all'incidente Webber-Hamilton, che è uno dei casi ovviamente da moviola, potremmo definirlo così, di questo Gran Premio. Ovviamente noi attendiamo anche i vostri sms al 349-238-6666. Oggi la domanda ovviamente non può che riguardare quante possibilità ha, secondo voi, Alonso di concludere questo inseguimento e di scavalcare Webber e lasciarsi alle spalle anche Hamilton, Vettel e Button nelle prossime gare, dunque laurearsi campione del mondo. Se ci credete, il titolo di Alonso invece temete, perché no, questo Vettel che ha dato del filo da torcere ad Alonso fino alla fine, tant'è vero che sul traguardo poi sono stati soltanto due i decimi che hanno diviso i due piloti. Carlo Vanzini, allora il direttore diceva l'ha vinto ieri il Gran Premio Alonso grazie a quello straordinario giro che gli ha regalato la pole position, oggi però insomma la gestione della gara è stata perfetta, non soltanto di Alonso ma di tutto il team. Beh, direi che quando arriva il Grand Chelem ed è il primo nella carriera di Fernando Alonso e l'ultimo l'aveva ottenuto Michael Schumacher alla guida della Ferrari per quanto riguarda i piloti in attività in Formula 1, beh, insomma il risultato parla da solo. Fernando Alonso ha fatto pole position, vittoria, giro veloce, gara in testa dall'inizio alla fine, più di così insomma non gli si poteva chiedere niente. Se vogliamo proprio guardare il pelo nell'uovo, giusto una partenza ancora un po' ritardata, ha rischiato molto, è andato a chiudere violentemente Sebastian Vettel, è stato secondo me l'unico rischio di questa gara per Fernando Alonso, gestita alla grande da lui, gestita alla grande dal team. È stato sfortunato Felipe Massa perché la Ferrari ha avuto un'ottima idea, quella di andare subito a cambiare le gomme con lui, però poi c'è stata immediatamente una safety car, fosse arrivata un po' più là questa safety car forse sarebbe stata una gara diversa anche per Massa, ma ovviamente adesso tutti gli sforzi Ferrari, anzi non da adesso ma da un po', sono concentrati solo e esclusivamente su Fernando Alonso, che a mio avviso a questo punto è il favorito per il mondiale, visto che davanti c'è Webber, non un Hamilton e non un Sebastian Vettel. Webber solido, ma Alonso ne ha sicuramente di più. Sentiamo allora Fernando Alonso in conferenza stampa subito dopo il trionfo a Singapore. Sì, una gara molto dura, lunga, con le safety car. E anche con i problemi di doppiaggi, soprattutto alla fine abbiamo trovato 5 macchine da doppiare, quindi era difficile il doppiaggio. C'era bandiera gialla sul rettilineo per il problema della Lotus, c'era la macchina che aveva preso fuoco e quindi non potevamo superare sul rettilineo, quindi a questo punto era difficile riuscire a doppiare i 5 davanti, non superare quella bandiera gialla e stare attento dietro. Quindi ultimi giri effettivamente è difficile e sappiamo tra l'altro come è difficile superare qua, quindi ho cercato di controllare semplicemente il mio distacco da Sebastian senza correre rischi. Dunque Fernando Alonso in conferenza stampa subito dopo la fine della gara di Singapore. A proposito di commenti, già ci è stato anticipato dai nostri ospiti quello che ha detto Domenicali, di fatto abbiamo vinto ieri il Gran Premio conquistando la pole position. Andiamo invece a bordo pista ad ascoltare quello che ha detto Andrea Stella, l'ingegnere di pista di Fernando Alonso, dunque un altro dei grandi artefici della vittoria di questo pomeriggio. È stato tutto il weekend duro perché è stato molto tirato sul filo della performance, perché le Red Bull erano molto competitive, quindi anche ieri la pole position è venuta di pochi centesimi, oggi la vittoria di qualche metro, ma di stare molto tranquillo perché c'erano dei doppiati davanti, c'era la possibilità di olio in pista per il fumo, c'era un po' di tutto, bandiere gialle, quindi non si poteva doppiare nelle ultime curve sul rettilineo qua, quindi sono stati due giri un po' delicati, ma è andato tutto per il meglio. Andrea Stella, ingegnere di pista di Fernando Alonso, subito dopo l'arrivo della gara di Singapore. Torniamo da Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Ultimi giri, però obiettivamente, come dire, emozionanti, no? Non soltanto per i tifosi della Ferrari, ma in generale per tutti gli appassionati, perché sembrava che Vettel potesse avere nel mirino Alonso. Chissà, magari con un giro in più forse poteva esserci la sorpresa. Lo avvicinava, ma se non c'era un errore, non mi sembra Alonso in questo momento, con l'esperienza che ha, col momento anche buono che sta vivendo, in grado di fare un errore da farsi passare su questa pista, dove ripeto, se non sono delle condizioni differenti, una gomme nuova e l'altro non le ha o robe del genere, uno non si fa passare da un altro su questa pista, quindi questo non credo. Vorrei invece dire che secondo me Massa invece la sua sfortuna, se vogliamo, è che la safety car è entrata troppo tardi, secondo me doveva entrare prima quando gli altri non avevano ancora cambiato, allora lui avrebbe guadagnato, invece entrando tardi tutti avevano già cambiato le gomme, lui non poteva più recuperare niente, gli ci voleva qualche giro prima in maniera che tutti entravano a cambiare le gomme per forza e lui poteva riguadagnare posizioni. Che ruolo avrà secondo te, direttore, nel futuro del mondiale Massa, ma questi no, ultimi quattro gare? Il ruolo che è giusto che abbia, insomma, in questo momento non scherziamo, i ruoli sono talmente estremamente chiari. Adesso, nel caso di, il problema grosso ce l'avrà semmai la Red Bull, che li ha veramente vicini tutti e due e non mi sembra mai molto disposta ad aiutarne uno, e questo secondo me continua a restare il loro vero limite, ma gli altri, insomma, i giochi sono un po' fatti. Mm. Carlo Vanzini, si diceva settimana scorsa che questo era un circuito su cui la Red Bull avrebbe avuto, non dico vita facile perché non ci siamo sbilanciati fino a questo punto, però dove si presentava indubbiamente da favorite. Secondo e terzo posto è un risultato deludente, accettabile per Vettel e Webber oppure no? Sì, avevamo anche detto che la Ferrari, siccome andava molto forte a Valencia, andava molto forte a Monte Carlo, non sarebbe arrivata proprio così da sconfitta a Singapore, però ci ha messo veramente del suo Fernando Alonso, perché il risultato ovvio di questa gara a macchine ferme sarebbe stato le due Red Bull davanti e la Ferrari o una McLaren sul podio. Invece Alonso ha creato la differenza. La delusione secondo me non è tanto per Mark Webber, che non dimentichiamo poi nella volata per il mondiale, siccome conta anche la fortuna per aggiudicarsi poi dei campionati o per diventare dei campioni, che con Vettel l'ha sbattuto e lui è rimasto in pista, l'altro è tornato a piedi ai box. Con Hamilton ha sbattuto, lui è rimasto in pista e l'altro è tornato a piedi ai box. Insomma, continua a avere grande fortuna Mark Webber, e la fortuna può essere decisiva. Però Mark Webber non è mai stato granché in corsa nel corso del weekend. Secondo me chi ha veramente tanto da rammaricarsi è Sebastian Vettel, per quegli errorini, gli unici errori che ha fatto nel Q3, nel momento di massima pressione, e ancora nel momento di massima pressione ha dimostrato di non saper reggere ancora del tutto questa pressione. Direttore, è un Vettel che non è ancora pronto per il mondiale, oppure ti aspetti che nelle prossime 4 gare riesca a recuperare questi 21 punti che lo separano dal compagno di squadra? Diciamo che adesso i primi 3 sono molto vicini e chiaramente ce la metteranno tutti. Questa era una pista molto, voglio, cucita addosso alle Red Bull. Hanno fatto un grande risultato di squadra, perché nei costruttori il secondo e terzo posto valgono molto, non hanno vinto, e questo però non ha nemmeno vinto Hamilton, quindi tutto sommato si è avvicinato uno che era più indietro e non quello che era più davanti, quindi loro restano in gara con molto ritardo. Sono d'accordissimo con Vanzini, questa mi sembra la stagione giusta di Webber, comunque sia, anche oggi potevano le cose girare all'inverso, invece a Spa si fermano in 5 davanti, a Monza gli vanno bene le cose per Hamilton, partendo dietro malissimo e pur riuscendo a risalire. Diciamo che mi sembra una stagione che a lui gli va bene, con questo poi alla fine vince chi va più forte, quindi adesso in questo momento ricomincia un campionato vero, e qui si vede adesso chi ha gli attributi e la macchina. 349-238-6666 il numero per i vostri sms per parlare con noi, per porre anche domande se volete ai nostri esperti, Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Due argomenti quando tra poco rientreremo dalla pausa dovuta dedicata all'informazione sul traffico. Il primo argomento ovviamente la moviola, abbiamo ribattezzato così, insomma, l'analisi dell'incidente tra Hamilton e Webber che forse ha deciso la stagione di Lewis Hamilton. E poi l'altro argomento, torniamo ad Alonso, volevo sapere, stiamo parlando di un Alonso straordinario, strepitoso eccetera, ma quando è stato il momento chiave che Alonso in qualche modo ha capito di poter essere ancora in corsa per il mondiale? Ricordiamo che prima della pausa estiva aveva parecchie decine di punti da recuperare ai leader della classifica, insomma volevo sapere sia da Cavicchi che da Vanzini, dopo la pausa, quando è che Alonso ha capito che il mondiale poteva ancora vincerlo, comunque poteva recitare ancora un ruolo da protagonista. Ci fermiamo per un attimo, restate con noi, tra poco torniamo per la seconda parte di Sport e Motori. Sport e Motori 800 24 00 24, il numero per entrare in contatto con noi, per porre anche le vostre domande ai nostri esperti, Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Se avete voglia di mandare i vostri sms potete farlo al 349 238 6666. Oggi ovviamente una puntata di Sport e Motori non può che essere dedicata interamente al commento del Gran Premio di Singapore, quintultima gara della stagione di Formula 1, vittoria per Fernando Alonso davanti a Vettel e Webber. Sul podio forse poteva esserci un posticino anche per Lewis Hamilton, se non che Carlo Vanzini al 36esimo giro il fattaccio. Da telecronista straordinario quale sei, come lo racconti quello che è accaduto tra Webber e Hamilton? Intanto ti apro e chiuso una parentesi. Sì. Facciamo i complimenti a Max Biagi che ha vinto. Mi hai anticipato, volevo dedicargli l'ultima parte della trasmissione. Comunque, bene, complimenti, ne parliamo più tardi per non spezzare sapevo, il ritmo. Ma visto che adesso sono tutti lì con ancora la tensione, allora diamo a Biagi quel che gli piace. Assolutamente, ne parliamo dopo. No, guarda, nel duello io ho sentito prima il direttore Carlo Cavicchi che diceva insomma che Webber ha le sue responsabilità. Sono d'accordo, nel senso che Hamilton si era preso la mezza macchina che per gentleman agreement ti consente, e anche se vogliamo per regolamento, ma più per gentleman agreement ti consente poi di prendere la corda e chiudere la curva. Mark Webber ha dimostrato nella sua carriera di essere un pilota molto duro, molto difficile per passarlo, quindi Hamilton lo sapeva. A Singapore il sorpasso è impossibile, io la vedo così. Grande Hamilton che ha tentato un sorpasso, avesse portato a casa quel sorpasso saremmo qui a parlare di un fenomeno e comunque lo è. Grande Webber a rispondere, e questa volta dico grande commissario a non intervenire, perché se no, se interveniamo su un sorpasso così, su un contatto così, allora lasciamo stare di chiedere i sorpassi in Formula 1, partiamo trenino e arriviamo con il trenino. È stato uno scontro molto duro, però proprio l'altro giorno commentando un po' di Formula 1 su internet abbiamo rivisto anche, certo, il 1979, un'altra vita, Villeneuve Arnoux. Beh, allora Arnoux l'ha detto anche in questi giorni, cosa dovevano fare allora? Mettermi in carcere. E Arnoux, proprio intervistato prima della gara, ha detto: io non vado a fare il commissario perché sennò lascerei gara libera a tutti. Secondo me oggi va bene così. Se vogliamo una Formula 1 che torna a essere combattiva, torna a proporci dei sorpassi, dei contatti, come una volta, bisogna andare su questa strada qui, ma poi essere sempre uguali nelle decisioni da qui in poi. Ho l'impressione che il direttore Cavicchi non sia d'accordo rispetto a questa lettura. Sono d'accordo perfettamente. Io infatti non dico che era da penalizzare Webber, ho solo detto che è colpa di Webber, cioè nel senso Hamilton non ha, stavolta non ha nessuna colpa. Secondo me Hamilton ha fatto quello che doveva fare, cioè provare a superare, passare davanti, e poi l'altro c'entra da dietro, sulla fiancata, sulla parte posteriore, buttandolo fuori. Io sto dicendo è un incidente di corsa, perfetto, però resta il fatto che mentre a Monza Hamilton secondo me ha avuto troppa fretta e si è giocato una buona parte di mondiale, oggi la seconda parte che si è buttato via, diciamo che secondo me di colpe ne ha poche, ha fatto il suo dovere, doveva provarci, un campione, è riuscito a passare, l'aveva passato, era davanti, perché se lui lo piglia più avanti non succede che lo fa girare, quindi l'ha colpito per forza da dietro, e lì Hamilton stavolta non ha colpe, e dico che gli è andato bene a Webber, perché gli sta andando bene tutto, perché poteva piegare anche lui un braccetto o qualcosa e non è successo. Direttore, Hamilton è un campione, però magari questa decina di punti, dozzina di punti che non porta a casa da Singapore, forse alla fine del mondiale qualcosa. Certamente, infatti, questo è chiaro, però oggi più che provare a superare uno che è il suo diretto avversario per il primo posto ed essere davanti, uno cosa deve fare? Allora, ci ha raggiunto Maurizio dalla Spezia all'800 24 00 24. Buona domenica Maurizio, benvenuto. Buonasera a tutti. Prego. Io volevo fare una domanda. La Ferrari può avere problemi di motore non avendo più motori a disposizione? Vero. Nelle future quattro gare. Carlo Vanzini, in effetti fai un po' la contabilità, ricordaci un po' a che punto siamo con i motori e ricorda anche la regola di questa stagione, Carlo. Allora, la regola è che ogni pilota ha a disposizione 8 motori per la stagione, e quando utilizza un motore nuovo perde 10 posizioni sulla griglia, quindi dal nono motore in poi ogni unità in più utilizzata fa perdere 10 posizioni sulla griglia. La Ferrari in effetti non è in una posizione comoda perché ha utilizzato un motore in più rispetto a tutti gli altri ed è già al limite degli 8 motori. Con Felipe Massa, per quello che è successo durante le qualifiche, ha utilizzato un propulsore nuovo. Però questa situazione va analizzata anche in modo diverso. Intanto Webber, da questo punto di vista, a proposito di fortuna, ma come diceva Enzo Ferrari, la fortuna e la sfortuna non esistono, bisogna procurarsele. Mark Webber prima di Singapore era 6 motori, quindi un vantaggio di 2 motori nei confronti di Fernando Alonso, guardiamo per la sfida mondiale. Però bisogna vedere quanto hanno retto, quanto possono reggere i motori usati, ed è questo il mistero, perché la federazione ci fornisce ovviamente i dati dei motori usati, quante unità nuove vengono utilizzate, ma non ci dicono gli effettivi chilometri percorsi dai vecchi motori, e quindi noi non possiamo che sapere condizioni sono. Che condizioni sono. Certo è che la Ferrari ha solo motori usati da qui alla fine, e forse il gran premio più pericoloso in tal senso può essere il gran premio del Brasile. In Brasile. Direttore, Cavicchi, è un elemento da cui ovviamente non si può prescindere quando facciamo un po' una nostra analisi di questi quattro gran premi che rimangono, ma è una regola che ti convince, che ti piace, oppure ne avremmo fatto volentieri a meno? Ma le regole sono fatte per essere discusse, adesso c'è, ma io non credo che i problemi siano un grosso problema. L'anno scorso Vettel a fine stagione, non ho capito quanti gran premi alla fine è riuscito a fare, i motoristi si dicono abbastanza convinti, perché per piccole cose ma riescono ad intervenire molto sui motori già usati, quindi loro si sentono molto tranquilli, giocano più rischio i cambi, il giro dei cambi è importante, in questo momento molti cambi sono stati usati, mi risulta che quello che ne ha ancora due nuovi è Button, ma Button mi sembra in questo momento il quinto della fila, quindi quello che anche il cambio porta 5 posizioni indietro quando viene sostituito, sì. I cambi sono più delicati. Direttore, io vorrei salutarti, non prima però di averti, insomma, come dire, un po' sfruculiato anche su l'argomento che Carlo Vanzini ci ha anticipato, ovvero il trionfo nel mondiale Superbike di Max Biaggi. Anche qui a me piace, insomma, chiederti cosa ne pensi dei personaggi, dei motori, no? Perché tu sei un profondo esperto conoscitore dell'uomo che va in moto, l'uomo che va in macchina, insomma, l'uomo che affronta la velocità. Di Biaggi cosa pensi? Aggiunge un'altra tessera al grande rimpianto in cui lui ha avvolto. Non abbiamo mai capito veramente il Biaggi quanto può valere. Oggi ha vinto questo mondiale straordinario dopo che l'anno scorso c'erano molti sospetti sul suo valore. Il pilota è sicuramente un pilota velocissimo quando parte da solo, fenomenale in alcune piste, con molte ombre da altre parti. Secondo me in questa situazione qui, che è quella della Superbike, un talento come il suo ha già perso un anno a vincere. Avrebbe potuto vincere qualcosina in più. Grazie a Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, appuntamento in edicola con il mensile italiano dell'automobile, il più prestigioso, il più importante, anche perché non il più venduto. Appuntamento domenica prossima, direttore, grazie ancora. Arrivederci. Ciao a tutti. Allora, con Carlo Vanzini, insomma, questa settimana non parliamo di motomondiale perché le bocce sono ferme e ne torneremo ovviamente a parlare domenica prossima, ma una pagina non possiamo non dedicarla, e tu hai fatto benissimo ad anticiparla prima, a Max Biaggi, che se avesse voluto scegliere alla vigilia un posto dove festeggiare questo trionfo che è storico, perché come ci ricorda Paolone via SMS al 349-238-6666, Max Biaggi, campione del mondo Superbike, è il primo italiano della storia. Insomma, meglio di così Biaggi forse non poteva fare, ha vinto anche in Italia, insomma, ha veramente stravinto. Beh, guarda, io vorrei ricordare un po' i numeri di Max Biaggi, perché magari chi non ha seguito gli anni del moto mondiale non sa bene di chi stiamo parlando. Lui ha disputato 215 gran premi nel moto mondiale, vincendo 42 gran premi, è andato 111 volte a podio, quindi vuol dire che più della metà delle gare è salito sul podio, in pole position 56 volte, quindi insomma stiamo parlando di un pilota che poi, passato in Superbike, 103 gare, 46 podi, quindi anche qua metà delle gare sul podio. È un pilota che si è scontrato in questa grande rivalità con Valentino Rossi e l'ha sofferta per il suo modo di essere, per il suo modo di fare. Età anche diversa, con Max Biaggi che è più anziano, diciamo più vecchio, non offende. Però si è tolto adesso, credo, una soddisfazione immensa, quella di conquistare questo campionato con l'Aprilia. L'ha fatto su una pista storica, insomma io direi che questa è veramente una giornata da incorniciare per Max Biaggi e metterla nell'album dei ricordi tra quelle che sono le più belle giornate della sua carriera. Grazie a Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Caro, ci risentiamo settimana prossima, dimmi. Velocissimamente, come no? Non l'ho fatto prima. MVP della giornata Alonso. Non ma quanto dubbio. Ci ha fatto divertire Kubica? È vero. È vero. Okay. È vero, è anche il momento, devo dire, delle fiamme in pista con l'auto spegnimento quasi di Kovalainen. Insomma, è stato anche un momento piuttosto divertente. Grazie a Carlo Vanzini. Ci risentiamo domenica, Carlo, per i consueti approfondimenti Formula 1 e MotoGP. Io devo ringraziare, ovviamente, come sempre, per il suo preziosissimo aiuto in redazione Giorgio De Luca, in regia Carmelo Lauricella. Questa domenica a voi l'appuntamento fra 7 giorni per tornare a rombare insieme sui circuiti di tutto il mondo. Parleremo ancora di Formula 1 e di Motomondiale. Restate su Radio 24 perché il grande pomeriggio sportivo continua con Carlo Gente. Adesso parliamo un po' di calcio, commentiamo i risultati di questa 5ª giornata in Serie A insieme, ma prima l'appuntamento con l'informazione delle 17. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Ciao. Sport e motori.